Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Schifani, Craxi fu una vittima sacrificale, solenne commemorazione oggi in Senato. Ritrovata la ragazza rapita a Fano, arrestati i genitori. Caos Haiti, il cibo arriva dal cielo, polemica sugli Stati Uniti per i soccorsi, 5 gli italiani ancora dispersi. Rifiuti tossici in Lombardia, anche le banche nel trust dei veleni. E buona giornata dalla redazione, da Anna-Rita D'Ambrosio. Dunque, primo piano, la solenne commemorazione di Bettino Craxi oggi in Senato, nutrita la presenza di ministri. C'era anche il premier Berlusconi in diretta da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Per Craxi non ci furono sconti, pagò le colpe di un intero sistema, fu una vittima sacrificale offerta da un ceto politico esausto e intimorito durante la crisi degli anni di Tangentopoli. Queste le parole del presidente del Senato Schifani, che ha aperto la cerimonia per il decennale della morte del leader socialista. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento. Quell'esperienza ed anche la sua tragica conclusione ci deve essere oggi di monito, innanzitutto quanto alla necessità di portare a compimento la lunga transizione, ridefinendo con un metodo condiviso un nuovo sistema di regole. Sono fiducioso che lo spirito con cui si è avviato il confronto sulle riforme istituzionali in Senato sappia produrre frutti che si nutrano anche dell'insegnamento delle esperienze, anche positive, che oggi qui ricordiamo. Dopo Schifani ha preso la parola Stefania Craxi. Mio padre appartiene a pieno titolo alla storia positiva dell'Italia repubblicana, ma sentiamo la sua voce. I segni della sua politica innovativa si trovano ancora oggi sulla scena politica. È un fatto che riconosce nel suo importante messaggio anche il presidente Napolitano. E io mi auguro, come nell'auspicio del presidente Napolitano, che nel nome di Craxi si apra la strada alla via della pacificazione nazionale. Anche Bobo Craxi ha apprezzato la lettera di Napolitano, sono parole, ha detto, che chiudono in parte e definitivamente una pagina di storia. Un convegno affollatissimo, presente il premier Silvio Berlusconi, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, poi i ministri Frattini, Bondi, Brunetta e Sacconi, il capogruppo del PDL alla Camera Cicchito e del Senato Gasparri. Per il Partito Democratico invece era presente il capo della segreteria politica Filippo Penati e la capogruppo dei senatori del Partito Democratico Finocchiaro. E da Roma è tutto, vola linea. Grazie Alessandra. In primo piano ovviamente anche ad Haiti, dove a 7 giorni dal sisma che ha devastato l'isola si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti. Scesi a 5 gli italiani dispersi e gli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare gli aiuti dagli aerei. Il punto nel servizio. Ad Haiti ci sono ancora speranze di trovare dei sopravvissuti, parole del portavoce dell'Ufficio di Coordinamento per gli Affari Umanitari dell'ONU, che ha anche reso noto il numero delle persone estratte vive finora dalle macerie, almeno 90. Dunque, si continua a scavare anche nella scuola, dove si teme siano rimasti sepolti un centinaio di bambini. La Farnesina, intanto, ha reso noto che sono scesi a 5 i connazionali di cui si sono perse le tracce. I senza tetto, secondo le ultime stime, sarebbero 1,5 milioni. Mancano cibo, acqua e medicinali, ripete chi opera sul campo. Oggi i militari americani hanno iniziato a lanciare dagli aerei gli aiuti con il paracadute, aggirando così il blocco che si era creato nello scalo di Port-au-Prince. Continua a preoccupare anche la situazione delle violenze. Nella polizia di Haiti sono rimasti 1.500 agenti su 4.000, è stato reso noto. Troppo pochi per riuscire da soli a mantenere l'ordine. E mentre migliaia di sopravvissuti cercano di lasciare l'isola, molti paesi, Italia compresa, stanno cercando di creare una corsia preferenziale per le adozioni. Sul fronte diplomatico intanto si spegne la polemica sul coordinamento degli aiuti da parte americana. Le autorità francesi sono pienamente soddisfatte della cooperazione con gli Stati Uniti, si legge in una nota della presidenza francese. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Questa dunque la situazione, sembra girare a vuoto, questa è la polemica delle ultime ore, la macchina degli aiuti americani. Per Obama un calo di consensi, ma che partita si gioca il presidente americano oggi, ad un anno esatto dalla sua elezione? Noi lo chiediamo a Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che è in collegamento con noi. Buona giornata. Grazie. Allora, qual è la situazione di Obama? C'è molto caos proprio in relazione a questi aiuti umanitari che dovrebbero arrivare innanzitutto dagli Stati Uniti. Si gioca una partita importante, Obama, su questo? Beh, direi di sì, anche perché su questo si gioca anche proprio una partita di popolarità interna, in particolare in alcuni paesi chiave, insomma elettorati chiave come quello del Massachusetts. Dovesse perdere per esempio il seggio di Kennedy, in parte anche perché c'è insoddisfazione su come vengono gestiti gli aiuti ad Haiti, sarebbe un segnale molto negativo per Obama, insomma. È probabile che Obama perda, che i democratici perdano dei seggi in Senato, però tutto bisogna vedere come e quali, e questo è un problema importante per lui. Il secondo punto è perché questo è un po' una chiave anche per l'America Latina. Obama ha avuto dei problemi con l'America Latina, per esempio in Honduras ha detto prima che non avrebbe riconosciuto il nuovo governo, poi lo ha riconosciuto dicendo che era stato eletto democraticamente, anche se in realtà nessuno ha realmente controllato lo svolgimento delle elezioni, comunque sembra che siano andate abbastanza regolarmente, e quindi in un certo senso sembra essere ritornato sulla sua parola. Questo lo ha messo in contrasto con paesi chiave come il Brasile ed altri, e quindi anche su questo piano della politica internazionale di riuscire a risolvere positivamente l'intervento per gli aiuti di Haiti è molto importante. C'è un fronte americano, dicevamo, ma c'è anche un fronte europeo che proprio oggi ha avuto un qualche problema in più con queste dimissioni, con questo ritiro dalla corsa da parte del commissario designato europeo alla cooperazione, la bulgara Jeleva, sommersa da una serie di polemiche. Ecco, il ruolo europeo e quello italiano invece, su questo cosa si può dire, sempre negli aiuti? Il problema del ruolo europeo è che in realtà è mancata un po' una iniziativa forte da parte della Commissione o anche del Consiglio sul coordinamento, perché i singoli Stati hanno reagito autonomamente. Questo ha accentuato l'aspetto di non coordinamento, non soltanto diciamo quindi a livello mondiale, ma anche a livello europeo. Ora, in una situazione del genere forse sarebbe dovuto fare un po' di più. Certo, la Jeleva era in una posizione molto debole, è positivo il fatto che si sia ritirata, che quindi abbia aderito a quella che era chiaramente anche la volontà del Parlamento europeo in questo senso, però questo certo non accelererà adesso il coordinamento europeo, perché bisognerà ripartire praticamente da zero in questo settore. Diciamo che in questa fase probabilmente il coordinamento europeo potrebbe essere molto importante, non tanto per il primo momento dell'emergenza, in cui dovrebbero essere soprattutto le Nazioni Unite ad agire, ma nel momento immediatamente successivo della prima ricostruzione e della ricostruzione. Qui è essenziale un vero e forte coordinamento europeo, perché probabilmente non solo il grosso degli aiuti, ma anche proprio il grosso degli interventi tecnici sarà europeo, ed è qui che a questo punto si misurerà la capacità delle nuove strutture di governo post Trattato di Lisbona di esercitare le loro funzioni. Grazie a Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, per essere stato con noi. Noi torniamo alla politica italiana. Riprende oggi la discussione in Senato sul processo breve, ma ci sono anche delle novità che riguardano Previti importanti. In diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Battute finali a Palazzo Madama per il cosiddetto processo breve. Domani mattina vi saranno infatti le dichiarazioni di voto e il voto finale. Il testo passerà quindi alla Camera. Sul disegno di legge che riguarda l'estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole pendono quasi 600 emendamenti. Su 15 proposte di modifica la Presidenza del Senato ha autorizzato il voto segreto. Un emendamento del Governo prevede intanto che le disposizioni del processo breve non vadano applicate ai giudizi d'appello in corso davanti alla Corte dei Conti. Il provvedimento bocciato dall'Associazione Nazionale Magistrati continua intanto a far discutere le forze politiche. Il Partito Democratico, con la senatrice Finocchiaro, parla di uno scempio della giustizia italiana perché il provvedimento manda al macero centinaia di migliaia di processi. I cittadini si ribellino, aggiunge Di Pietro. La replica della maggioranza è affidata a Quagliariello. Il processo breve, dice il vicepresidente dei senatori del PDL, sana una situazione unica in Europa e può costituire la precondizione per disinnescare il conflitto tra magistratura e politica. Infine, una notizia che arriva dalla Corte Europea: è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nel 2006 da Cesare Previti in seguito alle vicende giudiziarie relative al processo Imisir. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E resta aperto, sempre sul fronte politico, il dibattito sulle regionali. Puglia in primo piano con il caso Vendola. In diretta Elisabetta Fiorito. Nicky Vendola finisce nel registro degli indagati e si difende su internet. Il governatore della Puglia commenta così le voci di un'inchiesta probabile sul suo conto per aver favorito il ritorno in Puglia del noto neurologo barese Giancarlo Logroscrigno dagli Stati Uniti. Vendola si difende su YouTube, sentiamo. Credo che questa notizia, diciamo, non turbi minimamente il mio cammino, il mio percorso e la mia vita. È una forma, una delle tante forme escogitate per provare a colpirmi, perché forse io rappresento un'anomalia. Penso di dover prendere un premio, non l'iscrizione nel registro degli indagati, prosegue il governatore. Ho la coscienza a posto, la consapevolezza di non aver mai offeso le regole, il codice penale e la legge interiore che ogni uomo porta dentro di sé. Convinto dei comportamenti di Vendola anche Massimo D'Alema, da sempre considerato il deus ex machina nel PD, che appoggia Francesco Boccia, il rivale di Vendola. Solidarietà a Vendola anche dal capogruppo PD alla Camera Fabrizio Cicchitto. Tutto ciò in vista delle primarie del centro-sinistra di domenica in Puglia. A due gli sfidanti, Nicky Vendola e Francesco Boccia. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, noi restiamo a Roma per parlare di nucleare, se ne sta discutendo in un convegno. Ci colleghiamo in diretta con Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Il ritorno al nucleare dopo 20 anni è una grande opportunità. È l'idea di fondo delle 350 aziende che partecipano in queste ore alla sede di Confindustria al workshop Progetto Nucleare Italia. Opinione ribadita dal presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha ricordato gli investimenti in gioco, ossia 30 miliardi di euro. Se riusciremo a fare sistema, ha detto la Marcegaglia, il 70% di questi investimenti andranno all'indotto italiano. Ma affinché tutto ciò sia possibile, la Marcegaglia chiede serietà e norme certe al governo. Sentiamo. Ecco, serve informazione, non serve demagogia, non servono appunto logiche sbagliate, quindi noi vogliamo anche, ci diamo anche come obiettivo quello di dare informazioni reali e concrete, non solo agli imprenditori ma anche ai cittadini. E l'altra cosa che chiediamo è che ci siano regole, appunto, una volta definite nei tempi che noi ci auspichiamo saranno più veloci possibili, regole certe che non vengano cambiate, perché ripeto, questo è un classico investimento a medio, anzi direi a lungo, lunghissimo termine, e una delle condizioni è proprio quella della certezza delle regole e che non cambino, come dire, al cambiare di governo, di presidente di regione, altrimenti il rischio è veramente di perdere invece una grande opportunità nella quale noi crediamo. Rassicura sulla piccola quantità di scorie a lunga radioattività prodotte dai reattori l'amministratore delegato di Enel Fulvio Conti, che parla di scelta strategica riguardo a un ritorno al nucleare pari al 25% della domanda energetica nazionale entro il 2020. Scelta strategica non solo per la crescita del paese, ma anche in termini di sostenibilità ambientale. Enel costruirà in Italia 4 reattori con la francese EDF con investimenti di 18 miliardi di euro e soddisferà così la metà della capacità nucleare prevista nei programmi di governo. E da Roma è tutto, linea a voi. Le 13:17, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato della solenne commemorazione di Craxi in Senato. Il presidente di Palazzo Madama Schifani ha detto che Craxi fu una vittima sacrificale. Abbiamo parlato poi del caos di Haiti, il cibo arriva dal cielo ma c'è polemica sugli aiuti forniti dagli Stati Uniti. 5 gli italiani ancora dispersi. Adesso diamo spazio ampio alla cronaca italiana, ci sono tante notizie da approfondire. Innanzitutto quella che arriva da Fano: è stata ritrovata la 17enne pakistana rapita ieri. È durata poco la fuga della famiglia di Almas Mahmood, la 17enne pakistana rapita ieri dal padre dopo la scuola e ritrovata stamani dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro. Una fuga che era iniziata subito dopo il sequestro fuori dal centro di accoglienza di Fano, dove Almas viveva da quando vi era stata affidata su decisione del Tribunale dei Minori. Diretti verso Roma, dove hanno trascorso la notte, alle prime luci dell'alba i membri della famiglia Mahmood sono ripartiti verso Bologna per dirigersi nuovamente nel pesarese. Qui, sull'autostrada A14 tra Fano e Marotta, l'auto è stata fermata dai carabinieri che aveva seguito gli spostamenti della famiglia tenendo sotto controllo il cellulare del padre. Sono stati tutti condotti in caserma a Pesaro, dove i carabinieri li hanno interrogati per valutare la posizione del padre e della madre. Su di lui, Akhtar Mahmood, di 40 anni, pende l'accusa di sequestro di persona e la moglie ne risponderà in concorso. Indagato anche il fratello della ragazza di 16 anni. Ora Almas sta bene, come ci ha riferito il colonnello Stefano Fedele, comandante dei carabinieri di Pesaro. La ragazza sin da subito ha dimostrato di essere molto sollevata dal fatto di poter ritornare nella propria comunità, nel proprio centro, dove si era perfettamente integrata e stava bene. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Foggia per una storia ancora tutta da chiarire. Una ragazzina di 14 anni è stata presa in ostaggio da un uomo mentre si trovava in un negozio nel centro di Lucera. L'uomo sarebbe armato di un coltello, avrebbe chiesto di poter parlare con l'onorevole Mussolini. L'uomo è conosciuto alle forze dell'ordine perché 3 anni fa compì un gesto simile. Rifiuti, scoperta e smantellata a Milano dai carabinieri del NOE, una banda criminale. Quasi tutti imprenditori nel settore del trasporto dei rifiuti, lombardi, legati a cosche mafiose. E questo è il profilo delle 10 persone per le quali è scattata l'operazione dei carabinieri del gruppo Tutela Ambiente di Treviso. 4 di loro sono finiti in carcere, 6 agli arresti domiciliari. Traffico illegale di rifiuti pericolosi e riciclaggio di proventi illeciti, l'accusa. A capo dell'organizzazione criminale Salvatore Accarino, già arrestato nel 2008 e legato alla famiglia siciliana di Giuseppe Onorato. Nell'ambito dell'inchiesta altre 41 le persone denunciate, fra cui anche impiegati e direttori di alcuni istituti di credito che sarebbero stati compiacenti nel fornire sostegno finanziario all'organizzazione. 18 le perquisizioni effettuate dai carabinieri, sequestrate invece 7 sedi legali di società attive in Lombardia e 2 impianti di gestione dei rifiuti, oltre a una 15 di mezzi pesanti ed alcune aree di stoccaggio. La base utilizzata come deposito e trattamento dei rifiuti speciali provenienti soprattutto dalla bonifica di una vicina cartiera è il sito di Fagnano Olona in provincia di Varese, noto come La Valle. Secondo quanto accertato, Accarino disponeva di numerosi conti correnti che intestava a prestanome favorito da alcune banche delle province di Verbania, Varese e Milano. Irene Privitera, GR24, Il Sole 24 Ore. Dal nord al sud ci spostiamo in Calabria. Oggi la visita del ministro Maroni a Reggio Calabria. In diretta Filippo Veltri. Filippo, allora il ministro ha fatto degli annunci importanti. Sì, il ministro innanzitutto ha confermato che il Consiglio dei Ministri si riunirà in Calabria e ha dato anche la data, che sarà il 28 gennaio prossimo. In quell'occasione il Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria, ha detto Maroni questa mattina, approverà sostanzialmente il piano di contrasto alle mafie e soprattutto l'istituzione dell'Agenzia per i beni confiscati che avrà sede a Reggio Calabria. Maroni ha detto che questo è un segnale molto forte che sarà dato a tutto il Paese e dell'impegno, simbolo dell'impegno del governo nella lotta al crimine organizzato. Maroni ha anche inaugurato questa mattina una scuola che è stata ospitata in un bene confiscato all''Ndrangheta e ha poi partecipato ad un convegno sulle questioni di Rosarno organizzato dal FIULP e dalla CISL, presente anche il segretario del sindacato Raffaele Bonanni. Bisogna tener conto che questa visita di Maroni segue di appena 24 ore la visita del ministro guardasigilli Angelino Alfano, che ieri a Reggio Calabria ha dato alcune risposte in tema di potenziamento degli uffici giudiziari di Reggio, e arriva anche questo, però questa di Maroni, alla vigilia il 21 della visita del Presidente della Repubblica che sarà a Reggio Calabria in occasione della giornata della legalità. Grazie a Filippo Veltri per questi aggiornamenti dalla Calabria. All'alba sono cominciati i lavori preparatori per l'alta velocità in Valsusa. Dalle 4 del mattino sono in azione alcune trivelle nell'area dell'aeroporto di Susa. Immediata la reazione dei Notav, che hanno organizzato una manifestazione di protesta e, come avete sentito durante gli aggiornamenti di viabilità, hanno bloccato per qualche ora l'autostrada Torino-Bardonecchia. Ci sono delle ripercussioni anche adesso. Sul posto ci sono un centinaio di agenti, mentre i dimostranti sono poche decine. Bamboccioni, ma per colpa di chi? Era il tema del nostro sondaggio di oggi. Sentiamo com'è andata. Che l'Italia sia un paese di bamboccioni è un dato accertato. Da noi i giovani faticano a staccarsi dalle comode mura domestiche. Già, ma perché? La colpa è dei genitori o del sistema sociale? Vi chiedevamo oggi nel sondaggio. Ebbene, il 67% di voi dà la colpa al welfare italiano. Stipendi bassi, magari anche a tempo determinato, affitti alti ed ecco che la bambagia di casa diventa un rifugio più comodo. Chi ha lanciato, per scherzo però, l'idea di una legge per cacciare di casa 18 anni i figli è il ministro Brunetta, che torna oggi così sull'argomento. Metà colpe dei padri, metà bambagia, effetto bambagia, chiamiamolo così. Il risultato è che noi abbiamo giovani compressi, con minor libertà economica, sociale, eccetera, eccetera, e in fondo, soprattutto quelli medio-borghesi, ben comodi. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. È compito dei cristiani in Medio Oriente far cadere il muro di paura, diffidenza e di odio con la nostra amicizia con ebrei e musulmani, israeliti e palestinesi. Lo si afferma nei lineamenti, le linee guida del Sinodo Speciale dei Vescovi per il Medio Oriente presentate oggi in Vaticano. La crescita dell'Islam politico nelle società musulmane a partire dagli anni 70 si legge anche ha prodotto correnti estremiste che rappresentano una minaccia per tutti, cristiani e musulmani, e noi dobbiamo affrontarle insieme. Questo si legge nel documento. Noi adesso ci spostiamo in Francia e parliamo di internet. Evitate di navigare con Internet Explorer. Dopo la Germania, anche la Francia sconsiglia di usare il browser più usato al mondo. Come Berlino, dunque, anche Parigi punta il dito contro la vulnerabilità del software della Microsoft. E a far scattare l'allerta sono stati recenti attacchi lanciati dai cyberpirati cinesi che, sfruttando proprio la vulnerabilità di Explorer, hanno messo KO il motore di ricerca Google. Così, dall'autorità di controllo francese è arrivata una raccomandazione che invita gli utenti della rete a usare dei browser alternativi. Intanto però in casa Microsoft si assicura che solo le versioni più vecchie possono essere vulnerabili e per correggere il problema si sta lavorando alacremente. Entro i primi 15 giorni di febbraio dovrebbe infatti essere disponibile un aggiornamento che gli utenti potranno scaricare in rete. Igor Fiatti, GR24, Sole 24 Ore, Parigi. Alle 10 e all'Aventino davanti a Mediaset, alle 12.30 a Viale Mazzini davanti alla RAI, alle 14.20 in Via Salaria davanti a Sky. Quasi una tournée per i presidi di protesta dei lavoratori del settore cine-audiovisivo indetto dall'ufficio truppa di SLC-CGL per protestare contro alcune norme del decreto Romani. Silvano Conti, coordinatore nazionale SLC-CGL. Noi chiediamo essenzialmente che siano immediatamente reintegrate le quote di investimento riservate al cinema e al documentario italiano, che siano reintegrate le quote di programmazione di prodotto audiovisivo europeo indipendente recente nelle fasce di massimo ascolto del palinsesto televisivo, che sia reintrodotta la norma che prevede l'attribuzione ai produttori indipendenti dei diritti residuali e che venga al più presto aperto un tavolo di confronto tra il governo, le associazioni di autori, produttori, sindacati, come dire, che riporti a una riforma ampia e condivisa del sistema audiovisivo nello spirito delle direttive comunitarie. E c'è anche un mondo, insomma, no, che intorno a questi punti, a queste questioni, come dire, si sta muovendo. C'è forte preoccupazione, un dato di non tenuto occupazionale e di involuzione ulteriore di questo settore, insomma, no, che è quello del cinema televisivo. Torna a teatro Franco Branciaroli con il suo Don Chisciotte. Da stasera al Piccolo Teatro Studio di Milano, lo spettacolo per cui ha vinto il premio Flaiano 2009 come miglior attore. Don Chisciotte, un enorme trattato sull'imitazione. Lo sostiene Franco Branciaroli, che per il secondo anno porta in scena, appunto, Don Chisciotte e Sancho Panza, imitando le voci di due grandi cavalieri della scena italiana, Vittorio Gassman e Carmelo Bene. Sono ciambelle che una volta ogni 20 anni riescono, dai. Il desiderio di far Chisciotte pervade più o meno tutti gli attori, però fallisce sempre, perché interpretandolo con la rotella in testa, insomma, con la lancia in mano, non regge più di 5 minuti, si diventa imitazione. imitatori degli attori, lasciando a loro due, i cavalieri della scena, in questo caso Gassman e Carmelo Bene, il compito di fallire interpretando loro sì Chisciotte e Sancho, e tu diventi un Chisciotte. Uno spettacolo divertente di grandissimo successo, prima stagione sold out, alla faccia della presunta crisi del teatro alla quale Franco Branciaroli non crede. Da sempre il teatro si dice che è morto, che non c'è, ma non è vero, i teatri sono pieni. Sai cosa è successo? C'è stato come un irrompere del teatro senza testo, che sta fallendo. Ritorna a funzionare il teatro che usa bene o male l'attore. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Fabio Cantadori in regia, vi lascio in compagnia di Daniele Biacchessi con Italia in controluce, a seguire l'appuntamento con America 24, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.